Siamo alla soluzione del quiz, vi ricordo la domanda che era: quanto dura il giorno lunare? Ebbene, non c'entra nulla la dimensione di un pianeta che abbiamo tirato in campo, non c'entra nulla con la sua rivoluzione su se stesso, potrebbe andare veloce o piano, non c'entrano appunto le dimensioni, non è uguale a quello della Terra, quindi 23 ore, 24 ore, invece è quello che accade invece è che l'attrazione terrestre ha frenato quella della Luna, che ruota su se stessa e ruota nello stesso tempo che impiega a girare intorno alla Terra, ovvero 29 giorni. Ed è questo anche il motivo per cui la Luna ci presenta sempre la stessa faccia.